Dopo una settimana passata in paranoia, sono così distrutto che quasi tiro le cuoia. Dopo la scuola torno a casa e tutto è una noia, così noioso che darei un occhio per un po' di gioia. Però poi tutto cambia quando ascolto lui, due volte a settimana in diretta live. Manda musica cazzuta, scaccia guai, tanto da dimenticare tutti quanti i pensieri miei. Il più grande spettacolo è The Music Place. Il più grande spettacolo è The Music Place. Il più grande spettacolo è The Music Place. Insieme a lui, Ronnie Spam. Il più grande spettacolo è The Music Place. Il più grande spettacolo è The Music Place. Il più grande spettacolo è The Music Place. Insieme a lui, Ronnie Spam. Bella Ronnie, senti qua questo jingle come fa. Muovi le mani, le gambe e la testa. C'è Ronnie in radio, è sicuro una festa. Uno speaker, DJ e un amico. Andiamo fuori per due mojito. Senza la musica io sarei muto, ma dico tutto nel cicala studio. Mette le cuffie e accende il mic. Guarda chi c'è, c'è Ronnie online. Comincia a parlare e non si ferma mai. Scrivi a Ronnie in diretta live. Ascolti da Roma, Pechino e Dubai. Proviamo con lui a fare un freestyle. Altro che televisione, parabola Sky. Ascoltalo almeno una volta e non ti pentirai. Il più grande spettacolo è The Music Place. Il più grande spettacolo è The Music Place. Il più grande spettacolo è The Music Place. Insieme a lui, Ronnie Spam. Il più grande spettacolo è The Music Place. Il più grande spettacolo è The Music Place. Il più grande spettacolo è The Music Place. Insieme a lui, Ronnie Spam. Dalle disco sei partito, guarda un po' dove sei arrivato. Ai tuoi haters fa il terzo dito e dai tuoi fan sei acclamato. Avversari tu non hai, rimarrai il nostro DJ. Tu per sempre resterai la nostra voce su The Music Place. Il più grande spettacolo è The Music Place. Il più grande spettacolo è The Music Place. Il più grande spettacolo è The Music Place. Insieme a lui, Ronnie Spam. Il più grande spettacolo è The Music Place. Il più grande spettacolo è The Music Place. Il più grande spettacolo è The Music Place. Insieme a lui, Ronnie Spam. Il più grande spettacolo è The Music Place. Il più grande spettacolo è The Music Place. Il più grande spettacolo è The Music Place. Insieme a lui, Ronnie Spam.